Caro fratello, io sono la tua sorella Giuseppina. E noi con questa invenzione che tu puoi sentire la mia voce. Noi siamo tutti bene, non pensare ai tuoi ragazzi, stanno bene. Fai conto che stanno in casa tua. Loro stanno allegri, si trovano in una terra molto buona. Speriamo che ci vedremo a più presto. Tanti saluti dalle mie ragazze e da tutta la mia famiglia. Quando vai a Roma, ci dai tanti baci alla mia mamma da parte mia, a mia sorella e tutti di famiglia. Il papa pure ha detto con me. Non faccio per me pure un papa. All right. Adesso deve parlare un'altra volta spesso. Caro padre, non pensate a noi, stiamo bene. Godiamo l'ottima salute. Francesco sta facendo grasso. E fuggire! Franco si è fatto grande, alto. I pantaloni, tutta quella roba italiana, non gli va più. Siamo costretti a rimandarli in Italia. Va un quintale e mezzo. E bugie! Dai un bacione forte alla nonna, Francesco! Caro padre, il cavallo che fa? La bicicletta! Dice, cammina come una volta. Dice, sono così addolorato di averlo lasciato. Il cavallo. Dice, mi ricordo. È un Ken? È un Ken, non teniamo un Ken. Un culo teniamo. Mangoccio, da dalla gente ci sono dei schizzi, devo stare un picco allegri, no? Si trovano molto bene e stanno in allegria. Perciò vi salutiamo tutti a voi e speriamoci a quanto più presto. Adiudesce e buona, adiudesce e buona, adiudesce e buona, adiudesce e buona.